La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Questo posto ha conosciuto la magia. Molto oscura. Molto potente. Stavolta non posso sperare di annientarla da solo. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco d'Assisi. Abbiamo voluto cominciare così, in maniera sicuramente anomala rispetto al solito, questa puntata del nostro settimanale di cinema, la nostra ora di cinema qui su Radio 24. Sì, perché nei cinema italiani si sta per abbattere il ciclone estivo Harry Potter, il sesto film della saga, Il Principe Mezzosangue, sarà l'unico grande colossal, l'unico grande evento estivo di questa stagione e arriverà nei cinema italiani il 15 luglio. E siccome sarà un mercoledì, noi non volevamo farvi aspettare fino al sabato successivo, eccoci in anteprima, perché poi noi il film lo abbiamo già visto, per raccontarvi tutti i segreti di Harry Potter, o diciamo quasi tutti, cercando di fermarci al punto giusto. Dedicheremo quindi i primi due blocchi della nostra trasmissione a questo che è un vero e proprio evento, vi racconteremo il film appunto in anteprima, vi proporremo le interviste esclusive a tre degli attori, gemelli James e Oliver Phelps, e la quasi nuova arrivata Ivana Lynch, Luna Lovegood nel film, che sono passati appunto da Milano. Sentiremo i fans e infine avremo gli esperti, anzi una esperta, Marina Lenti, autrice del libro Harry Potter a test, che è un compendio di quiz, un trivia vero e proprio dedicato al maghetto. Non mancheremo ovviamente di giocare con Harry Potter in questa puntata speciale, proprio partendo dai quiz del libro di Marina e regalando splendidi videogame del Principe Mezzosangue. E allora partiamo subito con il racconto di Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Quello che stai guardando sono ricordi. In questo caso riguardano un solo individuo, Voldemort. O come era conosciuto allora, Tom Riddle. Per andare avanti bisogna conoscere il passato. Questa è la lezione che impara Harry Potter nel sesto episodio della saga. È un nuovo anno scolastico. Harry, Hermione e Ron sono tornati a Hogwarts, ma la scuola è particolarmente severa. I Mangiamorte sono pronti ad attaccare e la tragedia è a un passo. In un clima già teso, il preside Silenti affida a Harry un compito delicato: carpire il segreto oscuro di Horace Lumacorno, professore di pozioni, che tra i suoi allievi aveva avuto proprio Voldemort. Non c'è luce senza oscurità. E così è con la magia. Personalmente io lotto sempre per vivere nella luce. Ti consiglio di fare altrettanto. È quello che ha detto Tom Riddle, signore, quando è venuto a chiederglielo. Al compito già non facile si aggiungono gli agguati dei Mangiamorte e del nemico di Harry, Draco Malfoy, contro il quale per la prima volta il giovane mago è davvero violento. Su di lui scatena un incantesimo nuovo di magia oscura che ha trovato in un libro appartenuto al Principe Mezzosangue. Hai mai sentito parlare di questo incantesimo? Il Sectum Sempra? No, mai sentito. E se tu avessi un briciolo di amor proprio, lo restituiresti. Ma c'è un'altra magia che Harry, Hermione e Ron devono imparare a conoscere, quella dell'amore, che tra filtri magici e sentimenti veri metterà a rischio la loro amicizia. È liberissimo di baciare chiunque gli va. Non me ne può importare di meno. I ragazzi di Hogwarts, insomma, sono cresciuti, hanno perso l'innocenza di quando sono entrati a scuola, hanno imparato ad affrontare le difficoltà e si preparano a fronteggiarne di ancora più gravi. Harry Potter non è più il maghetto occhialuto che appassionava i bambini e inteneriva i grandi, ora è un giovane uomo in grado di raccogliere il testimone nella lotta contro il Signore Oscuro. Il Principe Mezzosangue racconta proprio questo passaggio di consegne, in preparazione del gran finale, che al cinema però sarà diviso in due. Questo quindi il racconto in anteprima del Principe Mezzosangue. Fra poco ascolteremo le voci dei fans in attesa dell'uscita del 15 luglio. Prima però iniziamo a giocare con Harry Potter proponendovi un quiz tratto da Harry Potter a test, come abbiamo detto, di Marina Lenti, che è già in collegamento con noi. Ciao Marina! Buongiorno a tutti! Allora, noi adesso apriamo il tuo libro, proprio così a caso, e cerchiamo di fare una domanda. Sentite il rumore del libro qui vicino al microfono, eccolo qua. L'ho aperto e mi è venuto fuori il quiz numero 64. Tu lo sai, ovviamente, però i nostri ascoltatori... Assolutamente no. Ecco, no, ma non lo farò a te. Non so a cosa corrisponda, non ne ho la minima idea. Sì. Ecco, allora, leggiamolo dunque. Nel libro Harry Potter e la pietra filosofale, Voldemort si reca periodicamente nella foresta proibita per sostenere ostentarsi attraverso Raptor col sangue di unicorno. Questo particolare presenta, sotto il profilo strettamente mitologico, un'incongruenza. Perché? Chiede la nostra brava Marina Lenti. E allora le quattro risposte, perché si possono, come dire, scegliere quattro risposte. Risposta A, perché nell'unicorno non scorre vero e proprio sangue, ma una linfa magica simile a quella che scorre nelle piante. Risposta B, perché l'unicorno si fa avvicinare solo dalle fanciulle innocenti. Beato lui. Risposta C, perché l'unicorno teme chi ha poteri magici e lo avverte a distanza. Risposta D, perché l'unicorno è un essere totalmente selvaggio che rifugge il contatto con qualunque essere umano. E allora, se avete la risposta, la rosa purpurea, @radio24.it, per provare a vincere, a ricevere a casa il game, il videogioco che è stato editato proprio in questi giorni, è già nei negozi specializzati dalla EA, che è una... marchio importante del mondo del videogame, è proprio inerente Il Principe Mezzosangue, si intitola proprio anche il videogame Il Principe Mezzosangue, e si gioca molto con le pozioni, per cui se amate gli intrugli di Harry Potter è il gioco che fa per voi. Allora, come giudichi, Marina, non il film, che ovviamente non hai ancora visto, ma il libro del Principe Mezzosangue? Allora, il libro del Principe Mezzosangue secondo me è un libro molto maturo, non solo nello stile ma anche poi nei concetti che vengono proposti, e soprattutto la cosa più interessante è vedere la crescita del personaggio di Voldemort, perché noi fino a quel momento insomma sappiamo ben poco. Andare a vedere attraverso le scene del pensatoio il percorso umano che l'ha portato poi a diventare quello che è un procedimento affascinante, secondo me, e spero che nel film sia reso altrettanto bene. Un libro che è rimasto particolarmente attaccato alla pelle, alle emozioni anche di molti fans in trepidante attesa. Ne abbiamo sentiti alcuni fuori dal Cinema Apollo di Milano, dove nei giorni scorsi c'è stata una maratona con la presentazione di tutti i 5 precedenti film. Sentiamo le nostre interviste. Le attese e le aspettative per questo 6° capitolo? Alte, cioè ci aspettiamo un bel film. Pare che attorno a questo 6° capitolo ci sia una grande aspettativa. Voi che li avete letti, era meglio degli altri? A me è piaciuto di più, sì. Anche perché J.K. Rowling ha fatto aspettare veramente tanto prima di pubblicare il 6°, quindi si è creata proprio questa atmosfera, c'erano delle smentite, delle idee, cosa sarebbe successo, quindi... Ma mi aspetto che ci siano buoni effetti speciali, sicuramente. Attesa per il nuovo Harry Potter? Abbiamo aspettato tanto tempo, finalmente adesso arriverà, e siamo due grandi fan, quindi attendiamo con ansia al momento. Letto il libro? Sì, certo. Ovvio. Cosa di particolare che vi aspettate di vedere finalmente sullo schermo? Ma è bella la magia, come viene rappresentato il tutto. Io voglio vedere il bacio di Harry con Ginny. Aspettiamo il 7 però per vedere quello di Ron con Hermione, che lo aspettano tutti, penso. Qualcosa di più romantico, visto che il 6° è più incentrato sulle storie d'amore anche. Certo. Magari mi aspetto che comunque il film si attenga di più al libro. Attesa per questo nuovo Harry Potter? Attesa tantissima, soprattutto perché è in ritardo poi tra l'altro di un anno rispetto a quello che doveva essere l'uscita. Tra l'altro poi per dei fan come siamo noi, che abbiamo già letto tutti i libri, è inevitabile che aspettiamo anche di vedere il film. Io ho già letto il libro e mi è piaciuto tantissimo, è il mio preferito. Poi ho visto il trailer e quindi sono emozionata per rivederlo. Quali sono gli ingredienti che vi hanno tutti così impressionato? Che è migliore degli altri in un certo senso, perché ci sono più avvenimenti, è più interessante, poi ci sono dei colpi di scena nel finale, quindi non aspettiamo di più. La rosa purpurea. Ci facciamo accompagnare nuovamente dalle musiche della colonna sonora di Harry Potter in questo secondo blocco, in questa seconda parte della Rosa Purpurea, che si apre sempre parlando del nuovo film Il Principe Mezzosangue nelle sale cinematografiche italiane dal 15 luglio. Abbiamo sentito nella prima parte un po' le aspettative del pubblico, dei fans di Harry Potter, abbiamo sentito il racconto del film, e ancora in collegamento con noi Marina Lenti, autrice del libro Harry Potter a test. Noi però adesso vogliamo farvi ascoltare i protagonisti, perché da Milano all'inizio della settimana sono passati tre degli attori del cast di Harry Potter, i gemelli James e Oliver Phelps e Evanna Lynch. Allora cominciamo con i due gemelli, ormai diventati gemelloni, 23 anni, James e Oliver Phelps, che impersonano i gemelli Fred e George Weasley sin dal primo film, quindi due vere e proprie colonne portanti di questa saga, e proprio da questa definizione è partita, ironicamente, la nostra intervista. io comincerei con una domanda alle colonne portanti, anche perché si sono messi di lato di questo film. Tutti i film hanno visto la presenza di questi straordinari gemelli. Cosa può aspettarsi il pubblico da questa nuova uscita? Yeah, the Half-Blood Prince is... Il Principe Mezzo Sangue è il mio film preferito nella saga. È sicuramente molto più cupa come storia, però ha forti accenti di commedia e ci sono una serie di storie d'amore che si sviluppano. Ce n'è per tutti i gusti. Yeah, it's definitely grown up with the it picks up straight from the end of HP5. E poi inizia esattamente dove finiva Harry Potter 5. Quindi ha immediatamente un ritmo incalzante. I personaggi entrano subito nel vivo dell'azione. Il film dura quasi 2 ore e mezza, ma sono volate. È un film molto godibile. Ecco ragazzi, siete cresciuti praticamente con Harry Potter. Come vi ha cambiato lavorare in questi film nel corso dell'intera vostra adolescenza? Sì, abbiamo cominciato 14 anni, ormai 9 anni fa. Io sono cresciuto, nel senso che sono diventato meno timido, più aperto, e ho acquisito sicurezza in me stesso. Penso che il film mi abbia aiutato in questo. Entrambi siamo cresciuti coi personaggi anche man mano che cambiavano i registi. Per esempio, Alfonso Cuarón è quello che ha cominciato a farci interrompere l'un l'altro mentre parliamo. Invece Chris Columbus ci ha resi più chiassosi. È un percorso molto interessante da osservare a ritroso. I gemelli James e Oliver Phelps, bravi e simpatici. C'era però, come dicevamo, a Milano anche Ivana Lynch, irlandese, 18 anni, nei panni di Luna Lovegood dal quinto film della saga, cioè l'ultimo conosciuto, quello del 2007, L'Ordine della Fenice. Personaggio pazzerello, ma di buon cuore, che diventa subito profonda amica di Harry. E proprio nell'amore, nella parte sentimentale, Ivana Lynch vede una delle particolari novità, delle cifre del nuovo film Il Principe Mezzosangue. L'amore non era mai stato così presente nei film di Harry Potter. Si gioca molto su questi sentimenti che cominciano a nascere ed Harry impara molto sull'argomento. Ma il film si incentra soprattutto su quello che sarà il finale della saga, quando Harry e i suoi amici dovranno affrontare gli Horcrux ed eliminare definitivamente Lord Voldemort. Tutti avranno la loro vendetta e il loro momento. Infine, la giovane attrice irlandese trova riduttiva questa definizione di pazzerella lunatica affibbiata al suo personaggio Luna Lovegood. Sentiamo. I don't think she's crazy. I think she has some, you know, odd beliefs and they're not confirmed, but io non considero Luna Lovegood una pazza. Certo, ha degli elementi di originalità, però è effettivamente una guida per Harry. Ha delle stravaganze in cui crede che non vengono negate né confermate. Lei è pronta a tutto, però vuole essere convinta di quello che fa, non dà le cose per scontate. È saggia, vede cose che gli altri non vedono e soprattutto è aperta e non giudica. Per questo aiuterà tantissimo Harry. Ivana Lynch e i gemelli Oliver e James Phelps, ospiti speciali davvero, qui in questa puntata della Rosa Purpurea, dedicata in gran parte all'uscita del nuovo film della saga di Harry Potter. E allora noi ricorriamo ancora a Marina Lenti, l'autrice di Harry Potter a test, per intanto fare subito un altro quiz. Allora, la domanda 44, per vincere il game, il videogame del Principe Mezzosangue, quale raccomandazione ricevono dalla Warner Bros. Tutti gli attori della saga appena ottenuta la parte? Risposta A, di non montarsi troppo la testa. Risposta B, di mantenere segreta la notizia di aver ottenuto la parte. Risposta C, di iniziare a fare yoga per aiutarsi a reggere la pressione mediatica del Colossal. Risposta D, di parlare coi media solo attraverso un ufficio stampa. Diteci qual è la risposta esatta alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a ricevere appunto un videogame del Principe Mezzosangue in questa mezza puntata della Rosa Purpurea dedicata interamente a Harry Potter, a proposito del quale noi dobbiamo fare un'altra domanda prima di liberare Marina Lenti. Marina, la saga sta finendo e in termini letterari e soprattutto in termini cinematografici. Ormai mancano 2 film che in realtà sono un'unica storia divisa in 2 puntate, un po' alla Tarantino in questo senso, sì. Il finale di Harry Potter. E allora ti chiedo, cosa rappresenterà secondo te, che l'hai seguito dall'inizio, un po' la fine di questa storia? Beh, sicuramente la fine di un'era, già lo è stato dal punto di vista dei libri, si chiuderà anche dal punto di vista cinematografico, non si chiuderanno i riflettori, perché adesso con l'inaugurazione del parco divertimenti in Florida sicuramente la memoria verrà tenuta viva e perpetuata. Per quanto riguarda i film, forse artisticamente parlando, magari non passeranno alla storia per appunto meriti artistici, sicuramente come impatto, come successo, come incassi di botteghino. Penso invece che, come dice Stephen King, i libri diventeranno un classico per l'infanzia. E di questo ne sono convinti anche molti fans, sempre fra quelli che abbiamo sentito nella grande adunata di Milano, soprattutto sul fatto che finirà e sta finendo anche una generazione in un certo senso. I fans e soprattutto le fans, tantissime le ragazze rispetto ai ragazzi, non c'è sì, proprio paragone. L'ho notato anch'io in questo cosa. Senso, assolutamente nelle nostre interviste erano 9-1, che dicono tutto sommato, insomma, Harry Potter ci accompagna da quando eravamo proprio bambini delle elementari e con loro forse finisce anche la nostra infanzia. Allora ascoltiamo le interviste. Visto che fra due film pare che tutto finisca, insomma, voi siete preoccupate? No, per niente. Io sì, tantissimo. Sì, più che altro mi dispiace. Comunque ci sono un po' cresciuta e quindi mi dispiace che finisca tutto. Mito per i bambini, comunque per i ragazzi, anche per gli adulti, e quindi fa sempre dispiacere. E quando tutto sarà finito, fra un paio di film? Orfani di Harry Potter! Si piange! Si piange! Molto! È dalla terza elementare che seguiamo Harry Potter, quindi sarà la fine della nostra infanzia. E salutiamo allora Marina Lenti, grazie per essere stata con noi qui la Rosa Purpura, aver giocato grazie con noi e con il tuo libro Harry Potter a test in questa puntata speciale dedicata al maghetto. Ci avviamo alla fine di questo ampio spazio dedicato al film Harry Potter e il Principe Mezzosangue nei cinema italiani dal prossimo 15 luglio. Ci rimane però un aspetto che in una trasmissione come La Rosa Purpurea, che da sempre segue con grande attenzione tutto quello che si muove nell'home video, non poteva mancare, ovvero la presenza di Harry Potter in DVD. E qui ci colleghiamo, ancora una volta rimescolando quelli che sono i tempi tradizionali della trasmissione, al nostro DVD game. Ovvero andiamo subito a rivelare il film misterioso della scorsa settimana. Ascoltiamo una delle tracce che vi avevamo proposto. Perché cercava di superare il cane a tre teste Halloween? Chi vi ha parlato di Fuffi? Fuffi? Quel coso ha un nome? Ma certo che è un nome, è mio. L'ho comprato da un irlandese che ho conosciuto al pub l'anno scorso. È una cosa segretissima. Ora statemi a sentire. Tutti e tre voi vi state mischiando in cose che non sono fatti vostri. È pericoloso. Indizi non ne avevo lesinati. Avevo parlato di un DVD game di grande importanza. Avevo parlato di un film che era lo stesso, ma non era lo stesso. Si trattava ovviamente di Harry Potter, anzi, con più precisione, tre tracce di tre film diversi di Harry Potter, della saga di Harry Potter. Perché? Perché la Warner, contestualmente appunto all'arrivo al cinema del nuovo episodio, mette in circolazione uno splendido cofanetto, anche in Blu-ray, con tutti i cinque precedenti film della saga. Ed è davvero stato un piacere potervelo proporre come DVD game della settimana scorsa. Ora questo cofanetto è nei negozi specializzati, allora noi chiamiamo in anticipo il nostro Claudio Pofi a rapporto per raccontarci un po' quelle che sono le caratteristiche di questa produzione. Claudio, non è la prima volta che Harry Potter vede l'alta definizione. Sì, in effetti è la terza volta praticamente che vede l'alta definizione, perché inizialmente i film di Harry Potter sono stati editati da Warner nello standard ormai defunto HD-DVD, e a Natale dell'anno scorso hanno visto la luce in Blu-ray. Ora le opere di Harry Potter, i primi cinque film, sono nuovamente disponibili: Harry Potter e la pietra filosofale, la camera dei segreti, il prigioniero di Azkaban, il calice di fuoco e l'ordine della Fenice. Ora qui la differenza sta principalmente in una revisione grafica molto interessante da parte di Warner per i collezionisti dal punto di vista esterno e una riproposta sia per il DVD che per il Blu-ray di quello che era già stato precedentemente editato e distribuito. C'è da segnalare la presenza per tutti della copia digitale, ovvero la possibilità tramite un codice legato a ogni singolo prodotto immesso in commercio di poter scaricare la versione visionabile eventualmente su player multimediali piuttosto che cellulari. E allora grazie Claudio per averci raccontato tutto di questo cofanetto Harry Potter. Noi torneremo ovviamente più tardi nell'ultima parte del programma come sempre con te per le altre due recensioni della settimana in DVD, ma rimaniamo ovviamente ai DVD perché a questo punto dobbiamo cominciare a giocare invece con il DVD game tradizionale di questa settimana, facendovi ascoltare la prima traccia di un grande film, anche in questo caso un grande film, che è appunto il film misterioso di oggi. Sentiamo. Come ti è venuto in mente? Cosa? $600,000, è una fortuna. 200 al momento della firma. Dei soldi non ti devi preoccupare. La maggior parte degli americani lo vorrebbe in galera e tu lo stai rendendo un uomo ricco. La rosa purpurea a @radio24.it, più tardi altre due tracce per provare a indovinare. La rosa purpurea. Eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea per parlare degli altri film che arrivano nelle nostre sale. Lo spazio ovviamente si è molto ridotto, abbiamo parlato doverosamente tanto di Harry Potter, vi citiamo tra gli altri Adventureland, St. Trinians, Observe and Report, con distribuzioni variamente a macchia di leopardo. Noi invece abbiamo scelto un film per così completare la nostra offerta, la nostra proposta di questo weekend, che è firmato tra l'altro da un regista che abbiamo sentito prima citare proprio da uno dei gemelli di Harry Potter, ovvero Chris Columbus, che è stato appunto regista anche di un episodio della saga di Harry Potter. Chris Columbus torna nei nostri cinema con una commedia, potremmo riassumerla così: cosa non si farebbe per una notte con la capitana delle cheerleaders di un liceo americano. E questo è il tema di questo film intitolato Una notte con Beth Cooper. Ce lo racconta Daniela Fagione. Dennis è il classico allievo modello. Per tutte le superiori ha fatto silenziosamente da tappezzeria alla scuola e in pochi si sono accorti di lui. Durante la cerimonia di consegna dei diplomi, però, decide di uscire dall'anonimato e lasciare di sé un ricordo indelebile. Quest'oggi io vorrei anche guardare al passato, all'unica cosa che so che certo rimpiangerei se non la dicessi mai. Io ti amo, Beth Cooper. Io ti amavo! Nell'imbarazzo generale, Dennis riesce nell'intento di farsi notare dalla cheerleader dei suoi sogni, ma anche dal suo fidanzato, un energumeno cocainomane intenzionato a seguire la carriera militare. Il nostro nerd però non demorde e strappa a Beth Cooper un'uscita per la serata. Lui con l'amico del cuore, lei con l'inseparabile coppia di amiche disinibite, partono a tutta velocità per una notte indimenticabile. Tu non sei mai stato con una donna. Merendine, gnam! Mia mamma dice gnam. Gnam. Non questo, gnam. La vendetta del secchione potrebbe essere il sottotitolo di Una notte con Beth Cooper, tanto per fare il verso al più fortunato Transformers. Qui le trasformazioni sono quelle che tutti affrontano passando dall'adolescenza all'età adulta nell'ennesima pellicola su giovanilistiche trasgressioni made in USA. In questi giorni di esami di maturità la pellicola regala due risate a cuor leggero, ma i protagonisti si faranno ricordare per altro, speriamo. Aiden Panettiere forse per il suo tatuaggio sgrammaticato, il vivere senza rimi pianti che campeggia sulla sua sensuale schiena, Paul Rust invece per la partecipazione a Inglourious Basterds di Tarantino. Il regista è Chris Columbus, che ha già al suo attivo la regia dei primi due Harry Potter, mano solida quindi che qui non ha certo avuto bisogno di particolare impegno. Ed eccoci di nuovo pronti a giocare con il nostro DVD game, con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Io dico che oggi c'è stato un miglioramento. Sei pazzo? Ora ti spiego quanto sono andate male le cose. A fine registrazione c'erano due membri della troupe che dicevano che non avevano mai sostenuto né mai votato, ma che se lui dovesse ricandidarsi oggi, lo appoggerebbero. Gli stai regalando un'immagine presidenziale, santo cielo. E lascia perdere le banalità, David. A chi vuoi che importi se si portava il letto della Casa Bianca in Europa quando viaggiava? A me sì! La rosa purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi un'altra possibilità. Hai idea del casino che ha combinato? Ma cosa le è venuto in mente di mandare questo qua da Aurora? Ma è una faccenda delicata, come si fa ad affidarlo a un ragazzino? Ma sa cosa è andato a dire? È andato a dire che lui conosce gli uomini, che io sono un bambinone, e poi uno svago. Ma mi dica lei, ma si rende conto che qua stiamo giocando con i sentimenti delle persone? Guardi, signor Toschi, che la parola svago l'ha usata lei. E allora? Lei non sbaglia mai, non le capita mai di dire una cosa per un'altra. Aurora è furibonda, ero quasi riuscita a convincerla su mia moglie e dopo ci si è messo di mezzo sto deficiente. Oddio. Oddio. Oddio, una tachicardia. E quello che avete sentito è un monologo, una scena tratta da un film interpretato da uno straordinario attore che è nostro ospite. Si tratta di Giuseppe Battiston, Beppe per gli amici. La scena che avete sentito è tratta da Quo Vadis Baby di Gabriele Salvatores. Battiston è stato protagonista negli ultimi mesi a teatro con una pièce che egli stesso ha contribuito a scrivere. Si intitola Orson Welles Roast e, data la caratteristica fortemente cinematografica anche del suo spettacolo, visto che il protagonista è appunto Orson Welles, lo abbiamo ospite qui con noi. Ciao Giuseppe. Buongiorno, ciao. E allora è un grande piacere averti qui, avere uno degli attori. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, ma facciamo buongiorno e buonasera, perché tanto chi ci ascolta in replica ci ascolta di mattina. No, quindi... no, effettivamente ho confuso ormai i ritmi, perché sto lavorando di notte, dormendo male di giorno, quindi mi si sono accavallate le giornate, ecco. Tutta colpa di Orson Welles, Giuseppe, no? Magari adesso in questo, beh, Orson Welles sì, indirettamente c'entra, essendo un grande del cinema. Io sto lavorando in questo momento con un altro grande del cinema che è Silvio Soldini, quindi c'è una responsabilità indiretta anche di Welles. Ecco, raccontiamo un po' di questo spettacolo Orson Welles Roast, che ti ha fruttato il premio Istrio, che è uno dei più prestigiosi premi teatrali in Italia. Sì. Tu della PS sei anche autore, oltre che innegabile protagonista, diciamo, hai anche le physique du rôle. Innanzitutto perché su Welles, perché appunto è un personaggio che amo moltissimo, non soltanto come cineasta e come attore, ma come modello di intellettuale, diciamo. In realtà cercavo la materia per costruire uno spettacolo di teatro comunque, e mi piaceva l'idea di costruirlo intorno alla figura di Welles, quindi sono andato a rileggermi un sacco di materiale sulla sua biografia, e soffermandomi in particolar modo su una serie di interviste rilasciate da Welles. Non è uno spettacolo di narrazione, è uno spettacolo dove arriva Welles e ci racconta in forma di roast la sua vita, e ci parla di sé, ci parla del suo amore per il teatro, del suo amore per le donne, per i film, per il cinema, per la radio, per i media in generale. E parlando dei media anche sottolinea, e in questo caso l'ho trovato assolutamente condivisibile e necessario, anche moderno, no? Sottolinea l'importanza, in quanto pericolosità, ecco, diciamo, dei mezzi di informazione, partendo dal semplice assioma che la gente crede a tutto, ovvero a tutto quello che le viene presentato per vero, no? Welles fa un'analisi dei mezzi di informazione assolutamente perfetta dal mio punto di vista. E infatti ci sono due esempi, appunto la guerra dei mondi alla radio e Quarto Potere per il cinema, sono due straordinari esempi di quanto il potere dei media possa essere grande e pericoloso. In tutto questo ci sono anche delle incursioni nell'umanità di Welles, il senso di frustrazione nel vedere che i propri film venivano massacrati dalle produzioni, dai produttori. Difatti Welles si sentiva autore soltanto di Quarto Potere. Ecco Giuseppe, vuoi spiegare anche al nostro pubblico che cos'è il roast? Il roast è una cosa che succede nella cultura anglosassone, diciamo, dove in una celebrazione, una premiazione di qualcuno di importante, gli viene fatto il roast, ovvero viene fatto oggetto da parte dei suoi amici, che si presumono essere altrettanto importanti e illustri, no, viene fatto oggetto di battute e di prese in giro in forma di elogio al contrario. Ecco, questo si chiama fare il roast di qualcuno. Se avete la pazienza di andare a cercarlo, anche perché non ce l'ho fatta io, quindi può farcela chiunque, su YouTube c'è un piccolissimo roast che Welles fece a Dean Martin in occasione del suo compleanno, dove declama i versi di That's Amore come se fossero un sonetto shakespeariano. Ecco. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Now that's what I call touching, Dean. It has all the romanticism of a Tidy Bowl commercial. When the seems to shine like you have had too much wine. That's amore. What a profound thought. Could be inscribed forever on a cocktail napkin. See, say this more. Tippy, tippy, tay. Like a gay tarantella. Like a gay tarantella? Questo è un proprio West ci dà un magnifico esempio di roast. Ecco, Giuseppe, hai detto prima, passando al cinema, che stai lavorando appunto con Soldini, tra l'altro abbiamo avuto ospite recentemente anche Pier Francesco Favino, quindi come dire, stiamo mettendo insieme tutta la squadra di Silvio. Questo mi fa venire in mente una domanda. Tu hai una fidelizzazione forte con i registi che ti hanno utilizzato, fra virgolette, no? Silvio Soldini, ma anche con un genere come quello della commedia in generale, nel quale quando c'è bisogno di quel tipo di personaggio Beppe Battistone. Straordinario, secondo me, per esempio, Non pensarci di Zanasi, che ho trovato uno dei più bei film commedia italiani degli ultimi 10 anni, e qualcuno se n'è accorto, magari non tanto in sala, ma sappiamo che è venuto fuori uno spin-off televisivo, quindi vuol dire che gli elementi c'erano tutti, insomma. No? Innanzitutto ti ringrazio, perché è un film a cui sono molto legato, proprio perché è fatto veramente con 2 lire, e quindi la dimostrazione che si possono fare delle cose interessanti, partendo da idee interessanti piuttosto che da situazioni interessanti. Sono molto contento che dal film sia stata tratta una serie, sono contento di interpretare insieme agli altri attori quella serie. Ecco, e quanto invece alla fidelizzazione? Con Silvio, io sono presente nei film di Silvio da Un'anima divisa in due, se qualcuno se lo ricorda. Un'anima divisa in due è un film di qualche anno fa. Credo che lavorare insieme a Silvio sia un'esperienza meravigliosa, e ogni giorno, lo dico veramente senza piaggeria, ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Io sono ben felice di essere riutilizzato. Poi per quanto riguarda la mia presenza, forse bisogna, una domanda che bisognerebbe fare a loro, dici tu, se scrivono un ruolo apposta perché ci deve essere Beppe Battistone. No, è accaduto nel mio percorso con Silvio, è accaduto, parlo soprattutto di Agatha e la tempesta. C'è invece un film che ti manca? Questo sì, ma non ho problemi di relazione con il mio lavoro. Mi piacerebbe avere una responsabilità maggiore, perché sai, tu hai citato alcuni personaggi per i quali è necessario, secondo me, un lavoro abbastanza complicato, abbastanza delicato, perché sono personaggi che sono tangenti alla storia principale, alla storia dei protagonisti, e dei quali bisogna costruire attraverso poche scene un vissuto, e quindi dare una rotondità, no? Mi piacerebbe avere la responsabilità di un ruolo che non mi richieda questo tipo di lavoro, ecco, di un ruolo che non ha bisogno di essere raccontato in una scena e mezza, ma di un ruolo che ha vari momenti per essere dipanato e per offrire sfumature. Questo sì. Perfetto, grazie allora Giuseppe Battistone, sì. Complimenti per il premio Istrio, grazie. E buone cose per il tuo futuro lavorativo. Grazie mille, altrettanto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Beppe Battistone, ospite di questa puntata della Rosa Purpurea qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci pronti al rush finale della Rosa Purpurea di questa settimana. La quarta e conclusiva parte del nostro programma si apre con l'ormai irrinunciabile appuntamento con Trailer USA, la nostra vetrina sulle anticipazioni cinematografiche che ci arrivano da oltreoceano, partendo da un trailer, dai suoni originali di un nuovo film americano. Cerchiamo un po' di mettere il naso nelle sale americane per vedere che cosa si muove e capire in anticipo cosa arriverà da noi. Oggi parleremo di un film, di un documentario sulla storia del più grande, più importante, più atteso numero di Vogue nel corso dell'anno. Vogue ovviamente è la grande bibbia della moda, ma per capirci di più salutiamo subito la nostra Micaela Belisario, che oltre ad essere la voce storica di Trailer USA è anche una grande esperta di moda. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, oggi dicevamo parliamo di The September Issue, letteralmente il numero di settembre, l'uscita di settembre. Un film documentario presentato al Sundance Festival sulla moda. Per tutti i fashion victim cinefili in ascolto è un film assolutamente imperdibile, perché racconta la storia della leggendaria direttrice di Vogue, l'edizione americana di Vogue, Anne Wintour, e del suo enorme team di redattori che creano la rivista e governano di fatto il mondo della moda, dettando i ritmi e le tendenze. Per capirci, Anne Wintour è la terribile direttrice raccontata nel Diavolo Veste Prada, interpretata da Meryl Streep. È proprio su di lei che si è incentrato quel film di grande successo con Anne Hathaway. Michele, allora cominciamo dal titolo. Perché proprio The September Issue? Che significato ha nella storia della moda? Sì, il film è stato chiamato così sia in onore di un mitico numero di Vogue uscito nel settembre 2007 che pesava tantissimo, circa 5 pounds, pari a 2,5 kg, tanto da essere stato il numero più grande di una rivista mai pubblicato fino a quel momento. In più, per il mondo della moda, devi sapere che settembre è un po' come gennaio, come l'inizio dell'anno per la gente comune, nel senso che a settembre parte il lungo mese della moda e quindi della pubblicità a New York, Milano, Parigi, Londra. Questo film in particolare racconta, come hai già anticipato tu, la storia di Anne Wintour, direttore potentissimo nella moda, in grado di influenzare stilisti e passerelle. Pensa, Franco, che a Milano i designer si scapicollano per sfilare proprio nei giorni in cui lei è presente in città. Un suo sì o un suo no valgono il lavoro di un'intera collezione, insomma un po' come Ponzio Pilato. Ecco i commenti di alcuni stilisti e il giudizio che dà su un tessuto scelto da uno dei suoi stilisti preferiti, Oscar De La Renta. You are so influential with the designers. If we get behind something, it sells because of Anna. Oh my god, Anna is like Madonna. Anne Wintour, molti non lo sanno, ma è inglese e si è scalato i vertici dell'editoria, è stato anche grazie al padre che era direttore di giornale a Londra. Professionalmente è davvero spietata, è proprio come viene descritta nel Diavolo Veste Prada, e incute parecchia soggezione tra i collaboratori. Le leggende dicono che si nutra solo di cappuccino e ogni mattina alle 6 gioca a tennis. Ora sentirete un passo del film in cui chiede a due redattrici della sezione accessori quale messaggio intendano dare nel numero di Vogue di settembre, e si sentiranno le due giornaliste balbettare insieme una risposta. So it's all pinks. Mm-hmm. And Virginia, we really feel that this is the most important message to put in the September issue. Il mondo della moda, quindi, con le sue divinità, i suoi retroscena, gli scandali, un mondo che ha da sempre affascinato i cineasti, ma negli ultimi tempi c'è un rapporto molto stretto. Pensiamo a un documentario come quello su Valentino, Valentino The Last Emperor, presentato al Festival di Venezia. Insomma, un rapporto d'amore e odio che tra cinema e moda si è decisamente intensificato negli ultimi tempi. Questo era dunque The September Issue, dedicato ad Anne Wintour. L'avete sentito nel primo trailer, qualche stilista l'ha paragonata addirittura a Madonna. Il film uscirà il 28 agosto negli Stati Uniti, ovviamente con l'uscita del numero di settembre di Vogue. Ciao Michaela. Ciao Franco e un saluto ai nostri ascoltatori. Ed eccoci alla zona dedicata ai DVD. Dopo l'anticipazione su Harry Potter nella prima parte della trasmissione, ora andiamo a giocare ancora insieme per la terza volta, l'ultima in questa puntata, con il DVD Game. Ascoltiamo la terza traccia misteriosa del film di oggi. A volte bisogna fare molte cose che forse non si possono definire nel senso stretto della legge legali, ma vengono fatte per conseguire il bene più alto della nazione. Scusi, voglio essere sicuro di aver capito. Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può decidere il miglior interesse della nazione e poi fare qualcosa di illegale? Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, un film della stagione che si è appena conclusa, che si sta concludendo, uno dei migliori in assoluto, a mio avviso. Ne parleremo, ovviamente, sveleremo tutto settimana prossima. Per provare a vincere questo DVD bisogna appunto scrivere alla Rosa Purpurea, @radio24.it, che come sempre è anche l'indirizzo open, aperto, per darci qualsiasi tipo di consiglio e di segnalazione. Io vi ricordo, come ho già fatto la settimana scorsa, che stiamo preparando per voi un agosto tutto cinematografico qui su Radio 24, con una trasmissione quotidiana che si intitolerà La vita in un film. Comincerà il 27 luglio e per concludersi il 28 agosto. Saremo insieme 5 settimane, tutte le sere, dalle 18 alle 18.30, a parlare di film e a chiedere e a chiedervi soprattutto se vi siete identificati e in quali film vi siete identificati, vi siete rivisti, avete rivisto un frammento della vostra vostra vita. Tutti i giorni ci saranno con noi anche attori, registi, insomma, a raccontare, ma soprattutto sarà una trasmissione in diretta e quindi sarà aperta alle vostre telefonate per poter chiacchierare con voi e conoscersi meglio. Noi torniamo ai DVD perché recuperiamo di nuovo Claudio Pofi. Claudio, abbiamo detto appunto del cofanetto Harry Potter, ci sono due straordinari classici che arrivano nelle videoteche anche in questi giorni. Cominciamo con Lawrence d'Arabia, che torna in videoteca in uno splendore davvero straordinario. Ascoltiamo la clip. Se lei è indisciplinato, io so anche metterla agli arresti, sa? Sono i miei modi, generale. Che cosa? Sono i miei modi. Sembro indisciplinato, però non lo sono. Non ho ancora capito se lei è un ribelle o soltanto un deficiente. Ho i miei problemi, generale. Silenzio! Sì, signore. E la regia di David Lean per questo capolavoro immortale, vincitore di 7 premi Oscar, che viene riproposto da Sony Pictures Home Entertainment in una versione restaurata, integrale. Parliamo dell'edizione più lunga, quella rivista non moltissimi anni fa dallo stesso regista David Lean, di oltre 218 minuti. Il film è proposto in una qualità assolutamente straordinaria perché è stato restaurato in alta definizione. Il prodotto di cui stiamo parlando però al momento è disponibile solo in DVD, c'è una notevole traccia in italiano in Dolby Digital Multicanale, oltre all'originale inglese che consiglio assolutamente di ascoltare, e purtroppo a causa della lunghissima durata dell'opera, quasi 4 ore, non sono presenti extra. Sei una macchina dentro, no? Ma sembri una persona vera. Sono un organismo cibernetico, tessuto vivente su endoscheletro metallico. La mia missione è proteggerti. E chi ti ha mandato? Tu stesso. Oh, sempre più figo. Con la presenza nelle sale cinematografiche in questi giorni del nuovo capitolo della saga di Terminator, anche l'home video ha rianimato un pochino l'attenzione attorno a questo straordinario personaggio. Oggi vi parliamo di Terminator 2 che esce in Blu-ray. Claudio. Eh sì, l'opera di Universal è in uscita in alta definizione un disco assolutamente da riferimento. Innanzitutto la storia: Cameron porta al cinema questo blockbuster strepitoso nei primissimi anni 90, parliamo del 1991, e ci racconta di questa nuova avventura da parte di John Connor, inseguito da due cyborg, uno che lo vuole uccidere, l'altro che lo dovrà difendere. Arriva in alta definizione un solo disco, ma tre differenti versioni e durate del film: la versione cinematografica originale, una seconda edizione rimontata dal regista e una terza con un supplemento ulteriore di 3 minuti. Grandissima qualità audio, sono naturalmente presenti delle tracce ad elevata risoluzione anche per quanto riguarda l'italiano, tantissimi gli extra che permettono di approfondire la difficilissima lavorazione, preproduzione e postproduzione di un'opera che all'epoca fu un punto di riferimento per quanto riguarda gli effetti digitali in computer grafica. Grazie Claudio Pofi, appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpura per parlare di DVD. A presto, un saluto. E con Claudio Pofi si chiude la puntata della Rosa Purpura, questa puntata in grande parte dedicata in anticipazione all'uscita il prossimo 15 luglio di Harry Potter. Settimana prossima saremo ancora qui su Radio 24, sempre il sabato alle 18 e la domenica alle 9 del mattino, per raccontarvi tutto il cinema che c'è anche in questa calda estate 2009. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.